Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. In questo periodo non possiamo andare a vedere mostre e non possiamo entrare nei monumenti, però la nostra immaginazione, la nostra fantasia, il fatto di essere italiani, cioè di avere il nostro patrimonio artistico ben solido nei nostri occhi e nella nostra mente, ci permette di immaginarlo. E oggi vi faccio una visita immaginaria. Andiamo a vedere la chiesa di San Francesco al Prato di Perugia, una chiesa bellissima che si trova nel centro storico della città, una delle grandi chiese francescane dell'Umbria, che ha subito una storia molto travagliata di rovine, di distruzioni, di ricostruzioni, e che aveva al suo interno una serie straordinaria di capolavori. Per esempio, se fossimo entrati nel Medioevo, alla fine del 300, nei primi del 400, avremmo visto una delle più belle pale d'altare che fossero state concepite in quel periodo. L'aveva fatto un grande pittore di Siena, oggi non molto famoso, Taddeo Di Bartolo, che era in realtà famosissimo ai suoi tempi. Una macchina d'altare, si chiamava così, un colosso di 5 metri con tutti e sette i grandi santi protettori della città, e da una parte verso il pubblico e anche dall'altra parte verso i frati la stessa serie di tavole. Quindi un'opera d'arte fatta per stupire. Quest'opera d'arte, come tante opere, ha subito la dispersione un po' perché i politici non piacquero più, a cominciare dal 1500, poi divennero oggetto di famelico collezionismo nel 700, sono sparsi in tutto il mondo. Bene, Perugia li ha riuniti in una mostra che è chiusa, ma aspettiamo il tempo propizio per immaginarci la grande pala di Taddeo Di Bartolo ancora al suo posto sull'altar maggiore di San Francesco al Prato.